Qualche volta me l'hai chiesto, non so. Sono passati 10 anni e tu ti ritrovo un po' diversa. La tua vita contro senso, non la capisco più. È così che vecchie strade si incontrano, è così che le emozioni ritornano, è così che deve andare. Cieli azzurri da toccare, non ce ne sono più. Nel tuo viaggio ti ha guidato la fantasia, ma non posso regalarti la musica. Non lo sai che una canzone non si fa con due parole, a meno che, beata te, due chitarre mezze rotte che suonano, e tu vive trasparente in un attimo. Un saluto per un pianto, un abbraccio quasi a stento e te ne vai. Sentirai, la sentirai.